Il sole era ancora alto nel cielo quando andavo a raggiungere mia madre sulla piazzetta. Chiamavamo una gondola. Come sarebbe piaciuta alla tua povera nonna questa grandezza così semplice, mi diceva la mamma, guardando il palazzo ducale, che considerava il mare con il pensiero di cui il suo architetto l'aveva fatto depositario e a cui si manteneva fedele nella muta attesa dei dogi scomparsi. Le sarebbe piaciuta anche la dolcezza di quei rosa, perché non ha nulla di sdolcinato. Come avrebbe amato Venezia la nonna! E che familiarità capace di rivaleggiare con quella della natura avrebbe trovata in tutte queste bellezze, talmente piene di cose che non hanno nessun bisogno d'essere sistemate, che si presentano così come sono. Il palazzo ducale nella sua forma cubica, le colonne che sono, tu dici, quelle del palazzo d'Erode, nel bel mezzo della piazzetta, e ancora meno studiati, messi lì, come in mancanza d'altri posti, i pilastri di San Giovanni d'Acri e quei cavalli al balcone di San Marco. Veder tramontare il sole sul palazzo dei Dogi l'avrebbe deliziata la nonna, come vederlo tramontare su una montagna. E in effetti c'era una parte di vero in quel che diceva la mamma, perché mentre la gondola per riportarci in albergo risaliva il Canal Grande, vedevamo la fila dei palazzi fra cui passavamo riflettere la luce e l'ora sui loro fianchi rosati e mutare con esse, meno come abitazioni private e monumenti celebri che come una catena di scogliere di marmo, ai cui piedi si vada in barca la sera per veder tramontare il sole. Le dimore disposte lungo i due lati del canale facevano pensare così a luoghi della natura, ma ad una natura che avesse creato le sue opere con immaginazione umana. Ma nello stesso tempo, a causa del carattere pur sempre urbano delle impressioni che Venezia dà quasi anche in pieno mare, su quelle isolette dove il flusso e il reflusso si fanno sentire due volte al giorno e volta a volta ricoprono con l'alta marea e scoprono con la bassa marea le magnifiche scalinate esterne dei palazzi. Come avremmo fatto a Parigi sui boulevard, ai Champs-Élysées al Bois, in qualsiasi grande viale alla moda? Incrociavamo in mezzo al luminoso pulviscolo della sera le donne più eleganti, quasi tutte straniere, che mollemente appoggiate ai cuscini della loro carrozza galleggiante facevano la fila, si fermavano davanti a un palazzo dove avevano un'amica a cui far visita. Facevano chiedere se fosse in casa e mentre, aspettando la risposta, preparavano comunque il biglietto da visita per lasciarlo al portiere, come avrebbero fatto all'ingresso di Palazzo Guermont, cercavano sulla loro guida di che epoca, di che stile fosse il palazzo. Non senza sobbalzare, come sulla cresta di un'onda turchina al sommuoversi dell'acqua scintillante e ombrosa, sbalordita d'esser compressa fra la gondola danzante e l'echeggiante marmo. E così le passeggiate, anche soltanto per andare a far visite o commissioni, erano triple e uniche in questa Venezia dove il semplice viavai mondano prende al tempo stesso la forma e l'incanto d'una visita a un museo ed una gita in mare. Parecchi dei palazzi del Canal Grande erano trasformati in alberghi e per voglia di cambiare o per cortesia verso Madame Sazerat, in cui c'eravamo imbattuti, la conoscenza imprevista e inopportuna che si incontra durante ogni viaggio e che la mamma aveva invitata, decidemmo una sera di pranzare in un albergo che non era il nostro e dove si diceva che la cucina fosse migliore. Mentre mia madre pagava il gondoliere ed entrava con Madame Sazerat nel salottino che aveva prenotato, volli dare un'occhiata alla grande sala del ristorante, dai bei pilastri di marmo e anticamente tutta rivestita di affreschi, in seguito mal restaurati. Due camerieri conversavano in un italiano che traduco. I vecchi mangiano in camera? Mai che avvertano. È seccante. Non so se è bisogna conservar loro la tavola. Se poi scendono e la trovano occupata, tanto peggio per loro. Non concepisco che s'accettino forestieri del genere in un albergo così elegante. Non è il loro posto. Malgrado il suo disprezzo, il cameriere avrebbe voluto sapere come comportarsi riguardo a quel tavolo e stava per mandare il ragazzo dell'ascensore a informarsi al piano quando, prima che ne avesse avuto il tempo, gli arrivò la risposta. Aveva visto entrare la vecchia signora. Non ebbi difficoltà, malgrado l'aspetto triste e affaticato prodotto dall'appesantimento degli anni e malgrado una sorta di eczema, di risipola che le copriva il viso, a riconoscere sotto il suo berretto, nella sua tunica fatta da V, ma simile per i profani a quella d'una vecchia portinaia, la marchesa di Villeparisis. Il caso volle che il punto in cui stavo esaminando in piedi le vestigia ad un affresco si trovasse, lungo le belle pareti di marmo, esattamente dietro il tavolo al quale Madame de Villeparisis s'era seduta. Allora il signor de Villeparisis non tarderà a scendere. Da un mese che sono qui solo una volta non hanno mangiato insieme, disse il cameriere. Mi chiedevo quale dei suoi parenti l'accompagnasse in viaggio e venisse chiamato signor de Villeparisis quando, pochi istanti dopo, vidi venire verso il tavolo e sedersi accanto a lei il suo vecchio amante, il signor di Norpois. L'età avanzata aveva affievolito la sonorità della sua voce, ma in compenso aveva dato al suo linguaggio, un tempo così pieno di riserbo, una vera e propria intemperanza. Forse bisognava ricercarne le cause in certe ambizioni che sentiva di non aver più molto tempo per realizzare e che proprio per questo lo riempivano di veemenza e di foga, o forse nel fatto che, messo ai margini di una politica in cui ardeva di rientrare, era convinto con l'ingenuità del desiderio di riuscire a far mandare in pensione con le sue cruente critiche coloro che si faceva forte di sostituire. Allo stesso modo si vedono uomini politici certissimi che il governo di cui non fanno parte non durerà 3 giorni. Sarebbe d'altronde esagerato credere che il signor di Norpois avesse del tutto perduto le tradizioni del linguaggio diplomatico. Non appena si trattava di grandi questioni, tornava ad essere, lo vedremo, l'uomo che abbiamo conosciuto, ma per il resto del tempo si sfogava su questo o su quest'altro con la violenza senile di certi ottuagenari che si gettano su donne a cui non possono più fare un gran male. Madame de Villeparisis mantenne per qualche minuto il silenzio d'una vecchia donna a cui la stanchezza della vecchiaia ha reso difficile risalire dalla rammemorazione del passato al presente. Poi, con una di quelle domande affatto pratiche su cui si imprime il prolungamento d'un mutuo amore, «Siete passato da Salviati?» «Sì». «Manderanno domani?» «Ho portato io stesso la coppa. Ve la mostrerò dopo pranzo. Vediamo il menù». «Avete dato l'ordine in borsa per le mie Suez?» «No. L'attenzione della borsa in questo momento è tutta per il listino del petrolio. È il settore guida». La Royal Dutch non ha fatto un altro balzo di 3.000 franchi, si prevede che arrivi a 40.000 franchi. A mio avviso però aspettare fino ad allora non sarebbe prudente, ma non è il caso d'aver fretta, viste le eccellenti disposizioni del mercato. Ecco il menù. Ci sono triglie, come primo. Volete che ne prendiamo? Io sì. Ma per voi è roba proibita. Chiedete del risotto, invece. Ma non lo sanno fare. Non importa. Cameriere, portateci intanto triglie per la signora e un risotto per me. Un nuovo e lungo silenzio. Ecco, vi ho preso dei giornali, il Corriere della Sera, la Gazzetta del Popolo, eccetera. Sapete che vi si fa un grande scorrere d'un movimento diplomatico il cui primo capro espiatorio sarebbe Paleolog, notoriamente insufficiente, in Serbia? Lo sostituirebbe forse l'Osé e ci sarebbe da coprire un posto a Costantinopoli. Ma, s'affrettò ad aggiungere con acredine Norpois, per un'ambasciata ad una tale levatura e dove è affatto evidente che la Gran Bretagna dovrà sempre avere, qualsiasi cosa succeda, il posto d'onore al tavolo delle deliberazioni, e sarebbe prudente rivolgersi a uomini d'esperienza, meglio attrezzati per resistere alle imboscate dei nemici della nostra alleata britannica, che non i diplomatici della giovane scuola, che si caccerebbero a occhi chiusi nella Pania. La volubilità irritata con cui pronunciò queste ultime parole era dovuta soprattutto al fatto che i giornali, anziché fare, secondo le sue raccomandazioni, il nome dello stesso Norpois come grande favorito, facevano quello di un giovane ministro degli esteri. E Dio sa se gli uomini maturi siano alieni dal porsi con chissà quali manovre tortuose in luogo e veci di reclute più o meno inette. Non ne ho conosciuti davvero pochi di questi pretesi diplomatici del metodo empirico, le cui speranze s'affidavano tutte a un ballon d'essai che io non tardavo a sconfiare. È fuor di dubbio se il governo è così poco saggio da mettere le redini dello Stato in mani turbolente che all'appello del dovere un coscritto risponderà sempre presente. Ma chi può dire, e il signor di Norpois aveva l'aria di sapere benissimo di chi parlava, se non avverrebbe la medesima cosa il giorno in cui venisse chiamato qualche veterano pieno d'abilità e di passione? A mio modo di vedere, ciascuno può avere il suo. Il posto di Costantinopoli non dovrebbe essere accettato se non dopo un regolamento delle nostre pendenze con la Germania. Noi non dobbiamo niente a nessuno, ed è inammissibile che ogni 6 mesi ci si venga a richiedere, con manovre dolose e nostro malgrado, non so quale liberatoria, su cui insiste una stampa da sportula. Bisogna che tutto questo finisca. E naturalmente un uomo di grande valore e che abbia fatto le sue prove, un uomo in grado, dirò così, d'accedere all'orecchio dell'imperatore, godrebbe di maggior autorità per mettere la parola fine al conflitto. Un signore che stava finendo di pranzare salutò il signor di Norpois. «Ah, ma il principe Foggi!» disse il marchese. «Ah, non so proprio di chi stiate parlando!» sospirò Madame de Villeparisis. «Ma sì, vi assicuro, è il principe Odon. È il cognato di vostra cugina Dudoville. Non ricordate che sono stato a caccia con lui a Bontable?» «Ah, Odon! È quello che dipingeva?» «Assolutamente no! È quello che ha sposato la sorella del granduca N.» Il signor di Norpois diceva tutto ciò col tono alquanto sgradevole di un professore scontento dell'allievo e guardava fissamente Madame de Villeparisis con i suoi occhi azzurri. Quando il principe ebbe finito il caffè e lasciò il suo tavolo, il signor di Norpois si alzò, si affrettò verso di lui, si fece da parte con un gesto maestoso e, defilandosi, lo presentò a Madame de Villeparisis. E per alcuni minuti, quanti il principe rimase seduto con loro, il signor di Norpois non smise un solo istante di sorvegliare con la sua pupilla azzurra Madame de Villeparisis, per compiacimento o severità di vecchio amante, o piuttosto, nel timore che s'abbandonasse a uno di quegli scarti di linguaggio che lui aveva gustati, ma che lo preoccupavano. Non appena lei diceva al principe qualcosa di inesatto, lui ne rettificava le parole e fissava la docile, sopraffatta marchesa con negli occhi l'intensità implacabile di un ipnotizzatore. Un cameriere venne a dirmi che mia madre mi aspettava. La raggiunsi e mi scusai con Madame Sazra dicendo che m'ero divertito a osservare Madame de Villeparisis. A questo nome Madame Sazra impallidì e parve sul punto di svenire. Cercando di dominarsi, «Madame de Villeparisis? Mademoiselle de Boyon?» mi chiese. «Sì, non potrei vederla un secondo. È il sogno della mia vita». «Oh, allora non perdete tempo, signora, perché fra poco avrà finito di pranzare. Ma come mai vi interessa tanto?» «Ma Madame de Villeparisis era, in prime nozze, la duchessa di Havre, bella come un angelo, cattiva come un demonio, che ha fatto impazzire mio padre. Lo ha rovinato». E subito dopo abbandonato. Ebbene, anche se si è comportata con lui come l'ultima delle prostitute, ed è per causa sua che abbiamo dovuto, io e i miei, vivere così modestamente a Combré, ora che mio padre è morto, la mia consolazione è che egli abbia amato la donna più bella del suo tempo, e dato che non l'ho mai vista, malgrado tutto, sarà una dolcezza. Accompagnai Madame Sazerat, tremante d'emozione, fino al ristorante e le mostrai Madame de Villeparisis. Ma come i ciechi che dirigono gli occhi altrove da dove bisogna, Madame Sazerat non arrestò lo sguardo al tavolo a cui pranzava Madame de Villeparisis e, cercando un altro punto della sala, «Ma deve essere andata via, non la vedo dove dite voi», e continuava a cercare. Inseguendo la visione detestata, adorata, che abitava da tanto tempo la sua immaginazione. Ma sì che c'è, al secondo tavolo. Evidentemente non contiamo partendo dallo stesso punto. Come conto io, il secondo tavolo è un tavolo dove c'è soltanto, a fianco d'un vecchio signore, una vecchina gobba e tutta rossa, spaventosa. È lei,